L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta, per la quale abbiamo in collegamento con noi Andrea Poggio, che è vice direttore di Lega Ambiente. Buonasera. Buonasera a tutti. Parliamo questa sera delle città sostenibili, che è il tuo ultimo libro, edito da Bruno Mondadori. E città sostenibili, credo tu volutamente non abbia voluto mettere smart, che ormai si dice dappertutto, proprio per sottolineare che una città sostenibile è qualcosa di più di una smart city, no? Ma è un filone di pensiero che è partito prima e secondo me ci porterà più lontano, anche se talvolta il termine sostenibile è stato usato in maniera equivoca. Ma attenzione, rischia di essere ancora più equivoco il termine smart. Infatti io propongo per la sostenibilità un approccio smart ai problemi, che non è soltanto quindi tecnologia, ma proprio un modo di pensare. Un modo di pensare che deve coinvolgere i cittadini e le comunità, quindi non solo i singoli ma anche proprio le comunità. Sì, appunto, una nuova logica tutti insieme, perché di fronte ai problemi dell'oggi, che so io, il problema drammatico nelle città del traffico, piuttosto che dell'inquinamento, dell'impatto ambientale delle città che rischia di non riuscire a farle sopravvivere, non può più essere facciamo grandi investimenti in tecnologie che rendano tutto più efficiente e meno inquinante, meno impattante, perché dopo aver inquinato risano. No, deve essere l'idea di cominciare a prendere a monte il problema quando si genera, cambiare il modo con il quale ci comportiamo, produciamo le stesse cose, facciamo più cose con meno risorse, usiamo più intelligenza tutti insieme per riuscire a rimuovere il problema alle radici. Per convincere anche il lettore del fatto che tutto questo sia possibile, tu utilizzi tre personaggi, che è una novità in un libro di questo genere, cioè volere un po' personalizzare le storie. C'è una studentessa, c'è una professionista, c'è un impiegato. Ci racconti un pochino quali sono le loro vicende, giusto per dare un'idea agli ascoltatori? Allora, l'idea è stata quella di diamo concretezza a queste cose, perché altrimenti sembrano la vita del 2050. No, oggi sta cambiando la nostra vita nelle città e nel giro di 10 anni questi signori, queste persone che stanno costruendo, stanno rifacendo la loro vita come tutti noi di fronte alla crisi, cambiano lavoro, magari stanno nello stesso posto di lavoro ma cambiano cose che fanno, se ne inventano di nuovi e intanto decidono di andare ad abitare ogni una casa ristrutturata o ogni un ecoquartiere, perché è più conveniente, perché sarà più conveniente in futuro. Come accade tutto questo? Cioè, tutto il libro non è un romanzo, io non sono un romanzino. Non è un romanzo, però è un, per me è stato una piacevole sorpresa scoprire che non era un libro, diciamo, tecnico, ma che aveva anche delle storie, insomma, che raccontava qualcosa. Sì, è uno strumento per fare divulgazione, i dialoghi tra questi personaggi tecnici che incontrano, giovani amici studenti come gli amici di Giulia, eccetera, eccetera, servono per dire che le scelte di oggi di ciascuno di noi sono scelte anche che rientrano nella normalità, che sembrano non toccare la politica, non toccare l'evoluzione delle applicazioni tecniche, dell'ingegneria, eccetera, eccetera, invece lo sono, perché la tecnologia ormai è diventata pervasiva. E non è soltanto la tecnologia degli smartphone che rende tutti più intelligenti, anche se non lo siamo, ma è la tecnologia con la quale si costruiranno le strade, le case, si rifatteranno le case e le strade delle città che si stanno già facendo adesso. Un po' dei numeri, tanto per avere gli ordini in grandezza: 1,5 milioni di edifici in Italia hanno già subito una ristrutturazione, magari parziale, con i sistemi di efficienza energetica generati dal famoso 55% di agevolazioni fiscali. Più di 500.000 edifici in Italia hanno un'applicazione solare sul tetto, termica o fotovoltaica. È solo inizio, perché gli edifici in Italia su cui rimettere mani sono 30 milioni, ma non mi sembra un cattivo inizio. Anzi, è l'inizio di un percorso che speriamo che cresca. Tra l'altro adesso ci sono, ne parlavamo poco fa, tanti nuovi sindaci, insomma, che possono effettivamente prendere questa strada, lavorarci seriamente, cercando di infrangere anche una serie di barriere burocratiche che effettivamente ci sono, no? Perché questo è indubitabile. Sì, ma la sfida è veramente dietro l'angolo. L'altra settimana, neanche 10 giorni fa, insomma, il governo ha varato un decreto, quello del famoso ecobonus, che è proprio la dimostrazione, lo spaccato di quello che sta succedendo, perché è qualche cosa che cambierà le cucine delle nostre case, che cambierà la possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali per fare efficienza energetica nelle nostre case, aumentandola fino al 65%, ma contemporaneamente recepisce la direttiva comunitaria che ci dice che dovremmo fare case addirittura a efficienza energetica totale, cioè consumo energetico quasi zero, e che l'Italia dovrà varare un piano per ristrutturare tutti gli edifici pubblici, quindi le scuole, gli asili, le palestre, gli uffici comunali, altrimenti non riuscirà più ad accedere ai finanziamenti comunitari che riguardano per esempio le smart city piuttosto che la proposta di ecoquartieri. C'è la possibilità di fare nei prossimi anni con i fondi comunitari 80 ecoquartieri in altrettante città italiane, come test pilota di come si cambierà nelle nostre città nell'arco degli anni da qui al 2020. Ho due domande in mente, ma la prima è la richiesta di circoscrivere un po' il tema dell'ecoquartiere. Che cosa si intende con ecoquartiere? Ah, è una bella sfida, perché ciascuno in questo momento sta mettendo delle robe sue. Ma noi di Legambiente, io ci ho provato dentro questo libro a dire tutte le mie, che stanno diventando protocolli, cioè non basta più avere delle case molto efficienti con i pannelli solari sopra, ed è assurdo che le case siano così efficienti, così rinnovabili, se il quartiere rimane trafficato e inquinato. Quindi si devono costruire insieme i modi di vivere, non soltanto le case ma anche il quartiere, per avere servizi in prossimità che siano altrettanto più compatibili. Che cosa? Dal fatto che i rifiuti diventano quasi zero in 300 comuni italiani è già così, tra politiche di riduzione e forte spinta alla differenziazione per il riciclaggio, perché ormai il settore industriale del rifacimento dei prodotti o del riciclaggio dei materiali è un settore industriale che resiste alla crisi, che sta addirittura crescendo, perché si cominciano a progettare dei sistemi di mobilità innovativi accanto al vecchio trasporto pubblico che deve diventare più efficiente. I quartieri car free, in cui gli abitanti non spendono più per la mobilità di proprietà, due macchine, tre scooter, un numero innumerevole di biciclette a famiglia, compresi garage, servizi inclusi, ma si comincia a investire sulla mobilità di prossimità condivisa, che serve a potenziare a dismisura la capacità e le possibilità del mezzo pubblico. Uno dice fantascienza. Beh, guardate che all'inizio io nella mia città di Milano lo vedo con il consenso che ha acquisito in questi anni il sistema di pedaggio del centro di Milano, forse l'unica tassa in Italia che gode di più adesioni, il 50% dei milanesi si dichiarano d'accordo, e contemporaneamente si è ridotto il tasso di motorizzazione. Milano ha perso 200.000 macchine in 20 anni, ha perso macchine di proprietà dei residenti persino nel momento in cui c'erano i bonus, per cui ti regalavano, lo Stato italiano se ti regalava 5.000 euro se rinnovavi la tua macchina prendendola più ecologica. Insomma, in sostanza dobbiamo anche un po' come cittadini trasformarci in quasi cani da guardia, nel senso che la crisi non diventi un'occasione per fare tutto quello che possiamo fare per migliorare anche l'ambiente, la nostra vita, la sostenibilità della nostra vita, e non diventi, adesso mi viene in mente per fare un esempio macroscopico, non diventi un capestro come per i giornalisti greci, no? per la crisi taglio tutto e non faccio niente, anzi addirittura torno indietro. Sì, vegliare, ma direi fare. Come dire, guardare lontano e muoversi con scaltrezza. Mi piace di più la volpe che il cane da guardia, non so come dire, perché noi ci stiamo inoltrando in un terreno inesplorato e dobbiamo capire come è fatto questo nuovo terreno, che è il terreno della green economy, del futuro dopo la crisi, dell'uscire a fare di più con meno. Non credo nel termine decrescita, lo racconto nel libro, nel dialogo tra gli studenti che puntano al loro futuro, perché penso che siano cambiati i parametri con cui si leggerà la crescita o la decrescita del prossimo futuro, visto che sono cambiati i bisogni. Allora non dobbiamo aspettare che succeda qualche cosa che ci tiri fuori dalla crisi, dobbiamo semplicemente tirarci fuori noi e capire come adeguarci alla nuova situazione del mondo e fare i conti con la sostenibilità come grande occasione di sviluppo, non come freno. Come negli anni invece purtroppo è stata spesso considerata, no? Scavalcata a favore di una crescita che poi si è dimostrata non del tutto felice, anzi. Grazie mille Andrea Poggio, vice direttore di Legambiente, ricordo Le città sostenibili, edizioni Bruno Mondadori. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a tutti voi. Appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora.